cambiare la realtà, che mi fa sentire ancora vivo, e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno. Nessuno ha scritto mai, leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non con te.